Buongiorno da Andrea Ferro, bentrovati all'appuntamento del sabato con Hashtag Autotrasporti in onda in collaborazione con il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. Apriamo con la notizia attesa da tempo dagli operatori del settore, cioè la firma da parte dei ministri Padoan e Del Rio del decreto che sblocca i 250 milioni di euro destinati all'autotrasporto dalla legge di stabilità. In una nota, il Ministero delle Infrastrutture si impegna ad accelerare gli adempimenti affinché le risorse siano al più presto disponibili. Questi 250 milioni sono destinati ad aiuti mirati per rimettere in moto il settore pesantemente segnato dalla crisi degli ultimi anni e dagli effetti della liberalizzazione. Secondo la ripartizione concordata a gennaio, con le associazioni di categoria, quasi la metà, 120 milioni, è destinata alla riduzione dei pedaggi autostradali. Il resto delle risorse finanzierà interventi per sviluppo, logistica, intermodalità, sconti al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e formazione. Altro argomento di stringente attualità resta il caso Sicilia, con l'interruzione dell'autostrada Palermo-Catania in seguito al cedimento del viadotto Himera. I progetti per la realizzazione del bypass di 1,5 km che dovrebbe aggirare il tratto autostradale bloccato sono pronti, ha detto il presidente della regione Rosario Crocetta. Ma i tempi per la realizzazione restano incerti e intanto nell'isola mobilità e logistica sono nel caos con gravi ricadute economiche. In seguito all'allungamento dei percorsi, la velocità commerciale dei mezzi è compromessa. Le associazioni degli autotrasportatori chiedono la sospensione dei pedaggi autostradali sulla rete regionale e il ripristino dell'ecobonus marittimo con un contestuale potenziamento del servizio navale. E sempre a proposito di autostrade, in Sicilia una buona notizia arriva dalla Messina-Palermo. Tra Brolo e Patti, in direzione Messina, è stata riaperta la galleria rimasta chiusa per giorni in seguito ad un incendio. E rimaniamo ancora in Sicilia. Il simbolo dell'associazione Addio Pizzo da giorni campeggia sui mezzi della Geotrans, l'azienda di trasporti confiscata alla famiglia Ercolano. Accanto al logo è scritto lo slogan «La legalità viaggia con le aziende confiscate». È un messaggio di fiducia nello Stato, hanno spiegato i promotori dell'iniziativa. E di antimafia nel settore dell'autotrasporto torneremo a parlare nell'appuntamento di lunedì alle 21:45 con il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Ivan Catalano. Razionalizzare e potenziare la logistica per la filiera agroalimentare è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal presidente di Confagricoltura Mario Guidi e il presidente di Unione Interporti Riuniti Matteo Gasparato, che spiega il significato e le potenzialità di questo accordo. Abbiamo un grande interesse comune con Confagricoltura e UIR di proporre e approfondire un dibattito relativo al sistema italiano della logistica inerente alla filiera agroalimentare. Sarà avviato un tavolo di lavoro in modo da arrivare a pervenire a proposte e azioni comuni e valutare e introdurre nuovi sistemi, per esempio, di tracciamento delle merci che riducano il carico sulle imprese, che semplifichino i passaggi autorizzativi e di documentazione, che abbattano i costi, che garantiscano la salvaguardia del prodotto, e si cercherà appunto ogni ricerca di sinergie tra sistema produttivo agroalimentare e il sistema infrastrutturale italiano. Un altro progetto pilota arriva dal mare e approda nei porti del Mediterraneo. Si chiama MedNet e punta a rendere più fluidi i collegamenti del commercio marittimo, accelerando la catena di approvvigionamento delle merci e riducendo i costi logistici portuali. Al progetto, del quale Capofila RAM, Rete Autostrade del Mediterraneo, hanno aderito i porti di Ancona e Taranto, enti ed istituzioni di Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Slovenia e Croazia. Rodolfo Giampieri è il presidente dell'autorità portuale di Ancona. MedNet è un progetto strategico del programma di cooperazione Med e serve a promuovere soluzioni tecnologiche per accelerare il transito delle merci nei porti del Mediterraneo. È un progetto che ha radici italiane e questo è molto importante perché è coordinato da RAM. Grazie a questo progetto l'autorità portuale di Ancona ha attivato il Port Community System che semplifica in pratica le comunicazioni tra gli operatori e tra questi e le dogane. L'Istat e, in un futuro molto prossimo, le capitanerie di porto, eliminando comunicazioni cartacee e facilitando naturalmente la condivisione delle informazioni. È un progetto che attraverso l'informatica risparmiare ai nostri operatori tempo e denaro. Termina qui Hashtag Autotrasporti del sabato. Vi ricordo gli altri appuntamenti con il mondo dell'autotrasporto su Radio 24, il lunedì alle 21:45 e il mercoledì alle 13:45 all'interno di Effetto Giorno. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buona giornata a tutti.